Anche i primi due casi di coronavirus da queste parti, tutto sommato prevedibili visti i rapporti commerciali e turistici tra Cina e Italia, scatenano polemica politica con Salvini che attacca e la maggioranza che gli dà del poveraccio. Il bilancio in Cina conta oltre 200 morti e quasi 9.000 contagiati, l'OMS dichiara la pandemia emergenza internazionale, l'Italia blocca i voli da e per il paese. Gli Stati Uniti raccomandano agli americani di non andarci, il Fondo Monetario prevede problemi per l'economia mondiale. Frontiere che si chiudono con la Cina, ma anche con l'Inghilterra. Certo, non subito, Però a mezzanotte Londra esce ufficialmente dall'Unione Europea, mentre si negozia l'accordo. La maggioranza in Italia si riunisce sul futuro del governo, ma ne esce un comunicato abbastanza generico sul futuro e sulle prossime sfide dell'esecutivo. Di cosa si discute? Dei negazionisti della Shoah, che secondo l'Eurispes raggiungono livelli record. Della professoressa di Coverciano, a proposito, che entra in classe e dice ai ragazzi che Liliana Segre è solo una che si fa pubblicità. Dell'ennesimo caso di una donna uccisa dal partner dopo essere stata picchiata per 3 giorni. Lo aveva già denunciato 2 volte e poi aveva ritirato la denuncia. C'è un modo per proteggere persone come lei? Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. In questo venerdì 31 gennaio, le 6:30 minuti e 22 secondi, ultima puntata della settimana di 24 Mattino, care ascoltatrici e cari ascoltatori, eccoci. Ed eccoci con voi. Scrivete, mandateci messaggi audio su WhatsApp al 349-238-6666 oppure SMS, WhatsApp scritti, quello che volete. Usate questo numero anche per raccontarci della vostra mattina con una foto. Cosa vedete dalla finestra, dal finestrino? Dove e come state facendo colazione? Magari davanti, tristemente, come accade a noi, davanti a una macchinetta, a un distributore automatico di caffè. E poi lo mettiamo sul nostro canale Instagram, in questo racconto collettivo degli ascoltatori di Radio 24 la mattina, per immagini. Siamo anche su Twitter, ovviamente, e siamo in diretta sulla nostra pagina Facebook. Allora, tra un attimo, tra l'altro, andremo a parlare più specificatamente delle questioni che hanno a che fare con il coronavirus. Lo faremo con la presidente dell'Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e Disordini Immunologici per fare un ulteriore punto dopo questi 2 casi italiani annunciati ieri dal presidente del Consiglio Conte con queste parole. Nel corso della riunione però abbiamo il ministro Speranza già costantemente aggiornato, c'erano 2 casi sospetti di coronavirus e abbiamo avuto l'aggiornamento dopo le verifiche effettuate che effettivamente questi 2 casi sono confermati. Quindi abbiamo anche in Italia, come già in altri paesi europei da alcuni giorni, in Italia per la prima volta oggi abbiamo 2 casi accertati di 2 turisti cinesi che sono venuti nel nostro paese da pochi giorni a gennaio e sono 2 casi accertati, ripeto, di coronavirus. Sono in isolamento, chiarisce il ministro Speranza. In queste ore evidentemente faremo tutte le verifiche del caso, proveremo a tracciare nel modo più completo possibile anche il percorso di queste 2 persone nel nostro paese. Ci sono tutte le condizioni, insomma, per poter riconoscere una situazione che è sotto controllo e che credo ora il professore Ippolito potrà riferirci, perché queste 2 persone sono in questo momento evidentemente in isolamento presso l'Istituto Spallanzani. Oh, il professor Ippolito dello Spallanzani per il momento non lo sentiamo, mentre invece vi voglio portare su altro di questa conferenza stampa. E adesso vi spiego perché saltiamo dal coronavirus alla verifica di governo, alla verifica di maggioranza. Sentiamo Conte, ma non sentiamo tutto il file audio. Intanto iniziamo a sentirlo. Un incontro per l'agenda di governo, via. Questo pomeriggio era dedicato al confronto con i capi di delegazione delle forze di maggioranza per il rilancio dell'azione di governo. Abbiamo quindi iniziato la riunione e ci siamo dedicati a elaborare un piano per l'agenda 2023. Abbiamo iniziato proficuamente a confrontarci E via. Allora, caro Roberto Arditti, direttore editoriale di formiche.net, torna da noi. Roberto, ciao, come stai? Bene? Bene, buongiorno. Allora, la nota di Palazzo Chigi recitava così: con le forze di maggioranza abbiamo definito un piano per l'agenda 2020-2023 partendo dal programma di governo. Inizieremo subito formando gruppi di lavoro che faranno la sintesi delle varie proposte sulle riforme, le misure necessarie a conseguire gli obiettivi di governo. Avete sentito? Cioè, finora non c'è un elemento di sostanza. Allora, Roberto, io sospetto un po'. Allora, i due casi di coronavirus li puoi annunciare in qualsiasi modo e in qualsiasi momento, anche la mattina dopo alle 8, anche il pomeriggio alle 6. Beh, insomma, l'idea che si sia passati dai coronavirus, dall'annuncio dei due casi di coronavirus, per oscurare un po' il fatto che questo vertice di maggioranza non è che sia stato fenomenalmente produttivo, un piccolo sospetto mi è venuto. Che dici? Sono tecniche di gestione dei rapporti con i media e le notizie che si applicano in tutto il mondo, ma certamente il Presidente del Consiglio, che ha una sua innata propensione a una gestione, come posso dire, volta a smussare gli spigoli, mettiamola così. Tema che gli veniva bene sin dall'inizio della sua attività di governo, ma che col passare dei mesi lo ha visto diventare un grande professionista da questo punto di vista. È una tradizione molto italiana e, se vogliamo usare un paragone politico che però un senso ce l'ha, molto democristiana, non è affatto un insulto, ma anzi semmai è molto più un complimento. Governare a picchi di eccessi, diciamo con la sciabola sguainata, non è facile e soprattutto non è nella nostra tradizione. Sì. Questo modo di governare arrotondando tutto è veramente, secondo me, nel carattere nazionale. Sì. Produce però delle frasi come quelle che tu hai letto. Sì. Una volta si diceva, pensando ad alcuni grandi della Prima Repubblica, per esempio Arnaldo Forlani. Lo sai che proprio Roberto, ti dico la verità, proprio ad Arnaldo Forlani stavo pensando, certo. Perché era assurdo, ammito, per la capacità di parlare, diciamo, di dire tante, di usare tante parole per poi dire non proprio tantissimo. Caratteristiche che però hanno consentito a molti carriere politiche lunghissime. Giusta notazione. C'è questo snodo che ha a che fare con il Movimento 5 Stelle. Sentiamo Conte, va. No, io ho parlato già con gli esponenti del Movimento 5 Stelle, ho avuto un confronto anche con Vito Crimi, che come sapete è il capo politico reggente. È chiaro che loro si sono dati dei tempi per quanto riguarda la completa riorganizzazione interna. Gli stati generali sono ancora di là da venire, ma l'attività di governo non può attendere, quindi assolutamente sono piani a questo punto assolutamente diversi, e loro vi hanno garantito che sono nella condizione di dare il loro giusto e auspicato contributo anche adesso, subito. Altri pezzi della maggioranza. Italia Viva, Maria Elena Boschi. Il governo deve cambiare passo. lo stiamo chiedendo da tempo. Oggi il Presidente Conte ha iniziato con le forze di maggioranza questa attività proprio di verifica, ma io spero soprattutto di indicazione di tempi puntuali, su questo sono d'accordo, è priorità di governo. Per noi la prima sicuramente, lo abbiamo detto e lo diremo alla nostra assemblea sabato e domenica qui a Roma, l'assemblea di Italia Viva a Cinecittà, è la crescita economica. Come si fa? Iniziando a sbloccare le grandi opere pubbliche ferme, quindi risorse che già ci sono, ma che sono bloccate dalle lungaggini dei tempi della burocrazia. Vai Roberto, vai. No, ma il punto in realtà è abbastanza semplice, almeno per come la vedo io. Dopo le elezioni regionali, e in particolare quelle dell'Emilia-Romagna, gli equilibri politici sono abbastanza cambiati, essenzialmente sotto due profili. Punto primo, la grande paura che nel Partito Democratico c'era di perdere una delle regioni storicamente governata dalla sinistra è rientrata, e questo ha reso il vertice del Partito Democratico e la sua delegazione ministeriale politicamente molto più tranquilla, forte e solida. Due, il Movimento 5 Stelle, che esce malamente da questa consultazione regionale, ha, con addirittura le dimissioni pochi giorni prima del voto del suo capo politico, è in una condizione di accompagnare l'attività di governo senza troppe pretese allo Stato. In questo schema il Presidente del Consiglio è oggettivamente un punto di equilibrio, perché non è un esponente del Partito Democratico, lo è anche meno del passato del Movimento 5 Stelle, quindi svolge questa sua funzione di equilibrio, ma di un governo che ha essenzialmente nel Partito Democratico il suo punto politico di forza, tranquillizzato dopo il voto dell'Emilia-Romagna. Di conseguenza, la situazione nel suo complesso lato governo si è tranquillizzata, e questo che poteva essere un anno di grandi sconvolgimenti a oggi appare come un anno di navigazione della maggioranza molto più tranquillo. Ci sono scadenze, Conte, nelle parole che abbiamo appena sentito, butta la palla in avanti anche sui temi politici, tant'è che il Movimento 5 Stelle ha spostato i suoi stati generali più avanti, perché ci sarà il referendum costituzionale e così via. Diciamo che i tempi si dilatano. Facciamo pace con questo, perché questo accadrà. Io intravedo un rischio, Roberto, su questo fronte. In realtà ne parlavamo già ieri, ma a maggior ragione lo intravedo oggi, è che questa navigazione tranquilla sia anche una navigazione lenta, ossia il paese ha bisogno di cose, a partire per esempio dalla famosa riforma fiscale. Oggi il ministro Gualtieri, trovate tutti i dettagli sul Sole 24 Ore, perché ieri è stato ospite di Telefisco, parla della riforma fiscale entro l'anno, riforma fiscale della quale il paese ovviamente avrebbe bisogno. E però la capacità di fare scelte coraggiose in una situazione complessa, di equilibrio, con forze politiche come il Movimento 5 Stelle in ristrutturazione, devo dire, non mi sembra semplicissimo, ecco. No, non lo è affatto. Non ci dimentichiamo che siamo comunque in una condizione molto atipica da tanti punti di vista, perché noi abbiamo un governo intanto che già è fatto di una coalizione di quattro soggetti politici, di cui due sono i più grandi. I due più grandi, che sono PD e Movimento 5 Stelle, punto primo, sono in una condizione diversissima da quella dell'inizio della legislatura e poco espressa dagli equilibri parlamentari. Secondo, sono storicamente, dal 2007 il Vaffadei di Bologna e di Beppe Grillo, i due acerrimi nemici della politica italiana, che adesso governano insieme ormai da 4-5 mesi. Questa condizione atipica che si è venuta a creare sorprendendo tutti, perché se qualcuno avesse chiesto agli elettori, ma anche ai dirigenti del PD o del Movimento, nella primavera del 2018, guardate che adesso dopo le elezioni farete un governo insieme, sì, Non ci avrebbe creduto nessuno, neanche Nostradamus. E invece è successo, ma questo non è gratis, perché bisogna mettere insieme, si guardi la prescrizione, sì, e si guardi la vicenda di Atlantia e delle concessioni autostradali. Aspetta Roberto, ti fermo, perché anche qua si sta ovviamente continuando un po' a temporeggiare, sentiamo la ministra De Micheli. Particolare novità, stiamo aspettando alcuni pareri, poi prenderemo le decisioni. Giorni, settimane, insomma, comunque appena avrò la possibilità di condividere con i miei colleghi, come sapete ho preso la decisione di condividerla con i miei colleghi di governo, prima col Presidente del Consiglio. Roberto, prego, vai. Che membri del governo italiano, del passato governo, ma sempre del governo, perché il governo è uno nelle sue funzioni, hanno usato parole di fuoco su questo tema del ritiro delle concessioni già nel mese di agosto-settembre dello scorso anno, anzi scusa, del 2018, perché dobbiamo andare alla tragedia del Ponte Morandi. Cioè, come si vede, poi la reale vita di governo ha tempistiche, e le parole della De Micheli che abbiamo ascoltato sono di un ministro che certo vuole decidere sulla materia, ma non è che proprio ha tutta questa fretta. Eh sì, decisamente. Tra l'altro De Micheli, che noi avevamo avuto ospite con Maria Latella, se non ricordo male l'ultima volta, tre settimane fa, aveva detto sostanzialmente la stessa cosa su autostrade, quindi siamo là che si aspetta. De Micheli, che ieri ha parlato, a proposito di dossier concreti, anche di alta velocità per il Mezzogiorno, ne abbiamo discusso ieri, c'era l'apertura del Sole su questa ricerca realizzata dall'Università Federico II di Napoli, la quale indica che le città raggiunte all'alta velocità hanno una crescita del PIL mediamente tra l'8 e il 10%, quando quelle non raggiunte all'alta velocità vanno da uno 0,3% mi pare a un 3%. De Micheli, l'alta velocità per il Mezzogiorno, sentiamola, va. Abbiamo deciso in via ultimativa di finanziare l'alta capacità da Reggio Calabria a Salerno, che garantirà una percorrenza più veloce dei treni, un importante upgrade tecnologico sulla sicurezza, che sapete quanto è importante per noi, ma soprattutto consentirà a quella tratta di essere anche molto funzionale alle attività commerciali e quindi, diciamo, per la parte di intermodalità delle merci. È un investimento di poco meno di 3 miliardi che finanzieremo prima dell'estate con un atto apposito, sia per la parte di progettazione che per quella realizzativa. Nel frattempo però siamo nelle condizioni tecnologiche di far partire a giugno già 2 treni da Reggio Calabria, uno verso Roma e uno verso Venezia, che consentiranno di avvicinare le distanze tra il sud e il nord. Così dunque De Micheli. No, a proposito di trasporti, traffico. Eccoci di nuovo. Ovviamente l'attenzione è concentrata, no, sul coronavirus, su questi due casi in Italia, naturalmente, posto che ce ne sono altri in Europa, 5 in Francia, se non vado errato, 4 in Germania, e il numero di vittime che sale in Cina, siamo oltre le 200, 9.000 contagiati complessivamente, nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato la pandemia emergenza internazionale. L'Italia blocca i voli da e per il paese, la questione diventa anche una questione di scontro politico, con Salvini che dice i primi due casi, bisognava chiudere le frontiere prima, Andrea Orlando del PD che gli risponde sei un poveraccio, vabbè, insomma, che dobbiamo fare? E poi questa psicosi vera e propria che si diffonde in tutto il paese, mascherine che vanno a ruba, ristoranti cinesi che subiscono un crollo delle prenotazioni. Una studentessa in Cina, una ragazza in Cina ci manda un WhatsApp audio nel quale ci dice: guardate ragazzi che qua siamo meno preoccupati di voi. Il governo cinese informa il popolo nelle giuste misure, senza dare troppo allerta e preoccupazione, che secondo me c'è molto più fuori dalla Cina, perché mi arrivano i messaggi da parenti, da mia madre, gli amici, che sono più preoccupati di quanto lo siamo noi in realtà. capito com'è? In Cina sono meno preoccupati. Cosa sappiamo adesso? Insomma, vi aveva annunciato Susanna Esposito, un'immunologa, un'esperta di malattie infettive. Stiamo cercando di raggiungerla, vediamo se riusciamo a pescarla prima della fine della trasmissione. Cosa sappiamo al momento? Al momento sappiamo che la mortalità, almeno per quel che ne sappiamo fino ad ora, è piuttosto bassa, intorno al 3%, considerata che quella della SARS era intorno all'8-9%, e però queste sono le notizie che abbiamo ad ora. E come dicevamo ieri, non sappiamo ancora quali siano poi le caratteristiche dei pazienti che muoiono. Quello che si sa è che generalmente sono persone con più di 60 anni, molti con problemi precedenti. Sicuramente il tutto avviene in Cina, dove le condizioni sanitarie non sono esattamente quelle della nostra, delle europee. Quindi, insomma, un po' di calma su questo coronavirus. Tema è questo. Senza tranquillizzare eccessivamente, ma senza fare troppo allarmismo dall'altra parte, insomma, questa storia dei ristoranti cinesi, dei negozi cinesi, e anche, fatemelo dire, degli episodi di razzismo nei confronti dei cinesi, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? O forse è il modo per qualcuno di sfogare il suo razzismo, prendendo una scusa, quella del virus. Ieri poi, tra l'altro, è successa questa cosa, sempre in termini di psicosi. Se mi consentite, un uomo delle istituzioni dovrebbe, per come la vedo io, magari sbaglio, stare un po' più attento. Ieri a Civitavecchia è rimasta bloccata questa nave, come sapete, una nave della costa con 6.000 persone a bordo. Perché c'erano dei casi sospetti, la capitaneria di porto a un certo punto dice: vabbè, non sono più sospetti, diamo l'ordine di sbarco. E il sindaco dice: no, non voglio. Beh, ieri il sindaco Ernesto Tedesco è intervenuto a effetto notte. Sentiamo cosa dice. Va. Di fronte a questa situazione, come è stata rappresentata, che c'erano degli accertamenti sanitari in corso da parte della direzione sanitaria marittima, che tra l'altro era impedito lo sbarco e l'imbarco sulla nave stessa, io ho chiesto alle autorità competenti, ho chiesto che questa limitazione allo sbarco fosse mantenuta fino a che lo Spallanzani non avesse comunicato gli esiti degli esami. Quindi si è spiegato un po' meglio dopo il sindaco di Civitavecchia. E a proposito di razzismo, caro Roberto, voglio coinvolgerti ancora invece su questi dati che sono stati diffusi ieri dall'Eurispes, no? Che indicano che un 15% degli italiani è un negazionista della Shoah, con, apprendiamo guardando nel dettaglio i dati, una percentuale più alta tra gli elettori che si considerano di centrosinistra, tra l'altro, insomma, però è una percentuale diffusa un po' dappertutto, mi pare un 22% per gli elettori di centrosinistra, del 13% tra gli elettori di centrodestra, però là siamo, insomma, un dato veramente preoccupante, devo dirti la verità. Un dato preoccupante per un verso, però secondo me dobbiamo ragionare con parole di verità e anche di onestà intellettuale. Il tempo passa e di conseguenza anche i fatti spaventosi e drammatici del Novecento ne subiscono un po' gli effetti dell'allontanamento storico. Per questo io credo che accadimenti come la Shoah devono rimanere vivi, perché sono un monito e sono un gigantesco antidoto a tutto ciò che minaccia la democrazia e la convivenza civile, ma dobbiamo anche imparare a farlo per certi versi con forme nuove. Faccio un esempio, tra l'altro ieri sera abbiamo fatto un dibattito su questi temi a Roma, e un'altra ricerca, in questo caso di SVG, metteva in evidenza che per esempio il profilo Twitter ufficiale di Auschwitz ha avuto un grande incremento di persone che lo seguono. Cosa intendo dire? Intendo dire che soprattutto per le persone più giovani, che vedono i fatti di metà del XX secolo come lontani, bisogna trovare formule, un po' si può fare, per attualizzare quei ricordi, quei messaggi, quegli argomenti, perché siamo nel 2020. Sì. E inoltre, siccome non dobbiamo nasconderci dietro un dito, va anche detto che l'antisemitismo in tutte le sue manifestazioni e la versione negazionista di chi parla di quei temi sono sempre esistite nella pancia della nostra Europa, ne sono parte integrante, e negarlo è un'operazione di rimozione intellettuale che non c'è motivo di fare. Sì. Questo, no, sì, bisognerebbe su questo, anche su questo bisognerebbe aprire una riflessione. Voglio precisare con un ascoltatore: non abbiamo detto che se decide di non andare più in un ristorante cinese diventa razzista, non abbiamo detto questo. Abbiamo detto ci sono stati degli episodi veri e propri di razzismo, cioè dei ragazzi cinesi che hanno ricevuto degli sputi, due ragazzini, due bambini che sono stati messi di fatto in quarantena dai cinesi, di origine cinese, messi di fatto in quarantena dalla loro dai genitori della scuola per una forma di psicosi, appunto. Insomma, questi sono alcuni elementi. Voglio chiudere però con un audio raccolto ieri da Piazza Pulita, ed è la voce di Yassin. Chi è Yassin? È il ragazzo della citofonata, il ragazzo di 17 anni che abita nella casa nella quale Salvini è andato a suonare a Bologna durante la campagna elettorale, dicendo: ah, qua abita uno spacciatore. Sentiamo, abbiamo giusto 20-30 secondi per sentire questo passaggio. Da quando è successa questa cosa? Tu quando esci... A un 17enne gli ha rovinato la vita da 5 minuti, da un giorno all'altro. Un politico che è venuto nella periferia così, cioè da, non so, pizzaiolo, postino, non so, a suonare, come dire, tu spacci. Ma cos'è? Gioca a calcio, sono un calciatore, non sono uno spacciatore. Se avessi di fronte Salvini, cosa gli diresti? Come si sente? Vorrei chiedergli come si sente lui. Se ha un cuore, se lo fa per pubblicità, per, cioè, perché cosa fa queste cose? Non lo so, non ti viene un po' dire ho fatto una cazzata? No, lui continua a dire no, lo rifarei. Ed eccolo qua Yassin. Bene, ci fermiamo. GR24, grazie Roberto Arditi, direttore editoriale formiche.net. Roberto, alla prossima, ciao . Buona giornata. Buona giornata. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.